si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, eccoci qua. Buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si Può Fare insieme fino alle 10. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta come ogni sabato e domenica mattina, come del resto sempre a Radio 24. Oggi non c'è con noi in studio Carlo Gabardini, sarà di nuovo con noi impegnato in cose sue il prossimo weekend. Cari ascoltatori, parleremo della lettera inviata dai ministri dell'agricoltura, della salute e dell'ambiente a Bruxelles, con la quale certifica l'addio definitivo dell'Italia agli OGM, organismi geneticamente modificati. La buona notizia resta che l'agricoltura italiana è un settore trainante che va bene, crescita degli occupati, dei giovani occupati più 35% quest'anno rispetto all'anno scorso. Insomma, ci domanderemo se questa decisione di dire addio agli OGM definitivamente è una buona notizia per l'agricoltura italiana o se c'è qualche cosa che da mettere a punto, anche perché continuiamo ad importare sementi geneticamente modificati che entrano nella nostra agricoltura. Poi parleremo della querela Rai, naturalmente, della settimana. Insomma, cominciamo con il riepilogo delle notizie di questa settimana, sempre a caccia di buone notizie. Vai! Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. E allora, la nostra settimana, non so quanto, diciamo, resa più felice dalle notizie politiche sulla riforma del Senato, che insomma sta andando avanti. I senatori stessi stanno votando le norme volute dal DDL Boschi, che riformerà definitivamente, forse ci sarà un referendum. È un percorso lunghissimo questo delle riforme costituzionali, ma insomma l'abbiamo seguito durante la settimana, lo riepiloghiamo, tiriamo un po' il filo così per ricordarci le cose più importanti che sono da annotare. Allora, il Presidente del Senato Grasso a inizio settimana ha dato una cattiva notizia a Calderoli, dicendo: guarda, i tuoi 75 milioni di emendamenti creati col famoso software che, cambiando una virgola e spostando una parola, ha creato appunto 75 milioni di emendamenti, sono irricevibili non nel contenuto ma appunto nella forma. Per rispettare pertanto i tempi stabiliti dal calendario dei lavori, la Presidenza è oggettivamente impossibilitata a vagliare nel merito l'abnorme numero di emendamenti, se non al prezzo di creare un precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile. Considero non inammissibili ma irricevibili gli stessi emendamenti, fermi restando invece quelli già ricevuti dalla Presidenza della Commissione Affari Costituzionali, al netto di quelli già ritirati. Oh, e questo, diciamo, è stato l'inizio. Adesso andiamo avanti. Vi voglio però anche dare il primo indizio per giocare con noi oggi sul personaggio della settimana. Cari ascoltatori, cerchiamo come sempre un personaggio che, insomma, ha a che fare con una notizia di questa settimana. Il personaggio, il primo indizio che diamo, è che in realtà si tratta di una coppia di personaggi. Due. Quindi pensate, notizia della settimana, due personaggi. 800 24 00 24, a chi indovina per primo, naturalmente chiamando in onda il mini guida di Expo, la mini guida di Expo edita da 24 ore cultura. Riprendiamo il filo delle notizie. Avete sentito Grasso che ha dato la cattiva notizia a Calderoli, sentiamo la risposta. Mi aspetto sempre che al momento del voto spunti la mano del dito di Renzi che va nella buca e vota al posto mio. Quest'oggi, Presidente, io la capisco, rispetto la sua posizione, la ringrazio per le posizioni assunte, ma da quest'oggi vige in quest'Aula il regolamento del Marchese del Grillo, che come tutti sanno in quel momento in cui veniva liberato, mentre invece tutti gli altri venivano arrestati, disse: io sono io e voi non siete un cazzo. Mi scuso per la parola, ma è Alberto Sordi che lo disse. Grazie. insomma, se Calderoli voleva, diciamo, fornire delle prove indirette sull'utilità della riforma del Senato, dell'abolizione o della riduzione del numero del Senato, ci è riuscito. Così come ci è riuscito due giorni dopo Barani, Lucio Barani dei Verdiniani, che insomma non ci sono prove diciamo filmate, non ci sono immagini dirette, ma avrebbe mimato il gesto della fellazio riferendosi ad una senatrice del Movimento 5 Stelle che doveva incassare, diciamo così, il fatto che il suo compagno di partito parlava nonostante il divieto imposto da Grasso, insomma il solito casino di queste giornate caotiche parlamentari. Barani poi ha detto: sono stato male interpretato. Solo detto che il senatore Falanga, per questioni personali, non gli è stato dato la parola sul loro intervento, gli abbiamo dato la parola come dichiarazione di voto e quindi ha parlato, ho detto ha parlato. Il mio gesto è che ha parlato Falanga, se loro lo interpretano in maniera maliziosa, se è stato interpretato male, io mi scuso, ma non aveva niente di offensivo. Ora, la difesa di Barani poi anche il giorno dopo con delle interviste è stata abbastanza penosa, perché ha detto: sono miope, non sapevo nemmeno di avere di fronte la senatrice del Movimento 5 Stelle, ma se hai gli occhiali, dico io, se porti gli occhiali anche se sei miope dovresti vederci, Dio santo, altrimenti di cosa stiamo parlando? Comunque è difficile stabilire se sia peggiore il gesto di un parlamentare che mima la fellazio rivolta a una collega, oppure la collega della collega Paola Taverna che comincia a urlare azzozzo, azzozzo all'indirizzo di Barani. È una cosa incredibile. Sentiamo Taverna. Mi mimandolo con il senatore Verdini che è lì accanto, forse perché gli è proprio all'uno e all'altro considerare in quella maniera le donne e a fare, io non so se posso, se posso. È così, senatore, senatrice, Marco Maria, mi chiamo all'ordine. È così, cari ascoltatori, giudicate voi. Porco maiale, peggio di mimare la fellazio, è una risposta sicuramente, però insomma, siamo sicuramente sullo stesso livello. 800240024, livello bassissimo ovviamente. È politica anche la decisione presa dall'Italia, che ha inviato attraverso i suoi ministri dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute una lettera a Bruxelles nella quale dice definitivamente addio agli OGM. Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi, sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni, e sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così. E diamo il buongiorno al presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo. Ben ritrovato, Moncalvo. Grazie, buongiorno a voi. Allora, io ho detto, insomma, la buona notizia resta che la nostra agricoltura è uno dei settori economici importanti dell'Italia, trainanti. L'ultimo dato lo avete fornito voi qualche giorno fa, più 35% di giovani occupati nell'agricoltura quest'anno rispetto all'anno scorso. Anche se sappiamo che c'è ancora un problema di ricambio generazionale, perché insomma non ogni volta che un anziano agricoltore abbandona le terre c'è un giovane che subentra, però insomma si cerca di fare sì che questo avvenga. La domanda è se la decisione dell'Italia di rinunciare anche solo alla ricerca in tema di OGM, insomma di dichiarare l'Italia OGM free, quindi di rafforzare anche l'immagine dell'Italia come agricoltura pulita eccetera eccetera, sia una buona notizia. Voi avete detto di sì, avete festeggiato positivamente questa notizia, ci spiega perché voi Coldiretti, ricordando invece che la vostra organizzazione, diciamo vicina alla Confagricoltura, ha espresso qualche perplessità. Adesso poi vedremo anche quali sono queste perplessità, Moncalvo. Guardi, noi pensiamo intanto che la decisione del governo sia la conferma di una scelta molto intelligente che il nostro paese ha fatto, cioè di continuare ad essere libero da OGM. Perché questo? Ma innanzitutto è una scelta di grande opportunità economica. Il mondo cerca cibo vero made in Italy e lo cerca perché è distintivo, perché è di alta qualità e perché è fortemente legato ai territori. Mentre la logica degli OGM è una logica di omologazione, che impone uno stesso prodotto in tutto il mondo, quindi è completamente agli antipodi rispetto a ciò che i nostri consumatori italiani e di tutto il mondo cercano quando pensano al cibo italiano. Se penso poi all'Italia, 8 cittadini italiani su 10 non la vogliono, e quindi sì, è un'opportunità economica quella di stare fuori dalla logica degli OGM. Seconda grande motivo per scegliere di stare liberi da OGM, perché per una questione di sicurezza ambientale, perché quando c'è stata una contaminazione di OGM in Italia a causa di chi non ha rispettato la legge, il Corpo Forestale dello Stato ha confermato che c'è un inquinamento che non si riesce a gestire e che non consente a chi vuole essere libero di OGM di, sì, poter coltivare. L'Italia non ha gli spazi tali per cui io posso coltivare OGM nel mio campo e poi... la coesistenza, certo, quindi sì, bisogna stare liberi da OGM. In più, se io, sì, guardo la situazione europea, questo mito degli OGM si traduce in una superficie che cala di anno in anno, che riguarda ormai poco più di 140.000 ettari di mais coltivati solo in 5 paesi su 28, ma di fatto la stragrande maggioranza di questo mais è coltivato in un paese solo, la Spagna. Quindi anche nei paesi in cui c'è libertà non aumentano le superfici. Chiaro. Questa è la conferma che anche gli agricoltori che hanno la possibilità di farlo non li vogliono. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere rispetto a... alla ottima scelta. Che ha, senta, fatto noi ci dobbiamo fermare un secondo per il traffico. Invito gli ascoltatori all'800 24 00 24 ad intervenire su questo argomento degli OGM. Ricordo che in effetti a fianco dell'Italia in questa decisione, diciamo, di dichiarare l'intero territorio OGM free, ci sono la Francia, la Germania, ma anche la Polonia, l'Austria, insomma 10 paesi, ma diciamo il totale tra quelli che hanno inviato o stanno inviando la stessa domanda a Bruxelles, si arriva quasi a 2/3 della popolazione e più o meno anche del territorio europeo. Però io le voglio fare una domanda, poi le chiedo di rispondere dopo il traffico. La domanda è questa: perché, come si può giustificare questa incoerenza tra non produrre OGM in Italia ma poter importare invece nel nostro paese per esempio sementi o prodotti che derivano, mangimi che derivano da produzione appunto di organismi geneticamente modificati. Traffico, torniamo tra un attimo. Gran Moravia è burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Siamo in compagnia di Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti. Moncalvo, la domanda è questa: se l'Italia, che non è autonoma, autosufficiente dal punto di vista, per esempio torniamo al mais, importa mais e soia, e spesso un buon quantitativo di questo mais e soia importato è geneticamente modificato, in gran parte credo che finisca nell'alimentazione dei nostri animali, che però poi fanno il latte, il formaggio made in Italy, eccetera eccetera. Che senso ha allora tutto questo? Cioè gli agricoltori italiani subiscono questa forma, diciamo, di, come dirla, di concorrenza sleale, non possono produrre in Italia OGM che ha dei costi oggettivamente inferiori, e però poi dobbiamo comunque farlo entrare attraverso un'altra via. Ma allora, intanto la partita dei costi inferiori degli OGM, direi che la prova dei fatti che non è così ce lo danno le superfici in Europa che continuano a calare. Questo vuol dire che anche chi li ha provati non è evidentemente così soddisfatto. Ma andiamo alla domanda. Qui di nuovo la realtà ci aiuta a capire cosa sta accadendo. Se noi andiamo nei supermercati troviamo sempre di più prodotti dalla zootecnia, quindi a base di latte, a base di carne, provenienti da filiere non OGM, di nuovo per rispondere alla domanda dei consumatori. Poi troviamo un sistema agricolo italiano che si organizza per produrre anche mangimi non OGM, penso ai consorzi agrari che oggi producono solo mangimi non OGM. Il problema del mais è un problema che non esiste, perché si trova tranquillamente il mais non OGM, e sul problema della soia, che si trova anche non OGM evidentemente sul mercato, stiamo lavorando di nuovo grazie alla ricerca italiana e grazie a partnership forti con l'industria italiana per trovare anche alternative alla soia su cui siamo autosufficienti. Ad esempio, con grandi intese con la Chimica Verde e con Novamont abbiamo iniziato la produzione di cardo selvatico, il cui seme ha un forte contenuto di proteine e si sta comportando molto bene nelle sperimentazioni che stiamo facendo sull'allevamento degli animali. Questa è la conferma che si può fare, c'è una strada alternativa la si vede già sui supermercati e come sempre la trasparenza è quella che vince, quindi arrivando a dare al consumatore la garanzia visibile nelle etichette di prodotti che vengono da una filiera completamente non GM. Ripeto, si può fare e gli agricoltori per primi in Italia insieme alla ricerca italiana e all'industria stanno lavorando proprio su questa direzione. Senta, ma a proposito di ricerca, perché questa decisione diciamo in qualche modo blocca anche la possibilità che si faccia anche solo ricerca sul tema di OGM in Italia, io le voglio chiedere, voi siete contrari anche a questa ipotesi di fare ricerca? Il ministro Martina aveva detto questo bisognerebbe non andrebbe comunque fatto, l'Italia dovrebbe fare della ricerca in tema di OGM o comunque in tema di agricoltura del secondo, terzo millennio. Mettiamola noi così. Il vostro problema è la concentrazione, le multinazionali, la Monsanto, eccetera. Noi siamo convinti che la nostra agricoltura distintiva abbia bisogno di una forte ricerca e innovazione, ma di una ricerca e innovazione che ci aiuti a mantenere le nostre distintività e che ci allontani dalla standardizzazione, dall'omologazione che ci toglie da quello che i cittadini vogliono rispetto alla nostra agricoltura. E anche su questo fronte la ricerca si può fare senza OGM portando a casa risultati importanti. Ancora la scorsa settimana abbiamo presentato un'iniziativa di ricerca tutta italiana, Università di Piacenza, insieme alla DuPont, insieme ai consorzi agrari e Coldiretti, con un fungo per fare la lotta biologica nel mais che abbatte il problema delle aflatossine e lo fa in modo naturale senza ricorso agli OGM. Quindi, ripeto, si può fare. La ricerca serve, ma serve una ricerca utile al nostro modello di agricoltura e non a quello prodotto promosso da alcune multinazionali. Bene, anche questo lo metteremo nel promo, tutti si può fare, che ha detto Moncalvo, perché ce li intestiamo tutti. Senta, un'ultima cosa, velocissimamente, perché poi dovremo dare la linea al giornale radio. Le voglio chiedere sulla vicenda Grom, la gelateria made in Italy per eccellenza, con i prodotti dell'alta qualità italiana, venduta alla Unilever. C'è un problema oppure no, secondo lei? Beh, ma come sempre, ogni qualvolta un marchio italiano passa di mano verso mani straniere, il dubbio viene, anche perché purtroppo la storia ci insegna che spesso c'è stato un tentativo poi di utilizzare il marchio, ma non più un legame con i prodotti del territorio, in particolare con i prodotti agricoli. In questo caso noi abbiamo letto che rimangono alla guida di Grom i fondatori e quindi auspichiamo che questo sia un modo per continuare a rimanere fortemente legati ai prodotti agricoli che sono poi contenuti nei gelati. Ci uniamo all'auspicio e auspichiamo che l'auspicio si traduca in realtà. Grazie Moncalvo. Grazie, buona domenica. Grazie per essere stato noi presente da Coldiretti. In 30 secondi per chiudere, Giuseppe da Cagliari, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Sì, prego, su cosa voleva intervenire? Ascolti, sì, per il quiz che stavate facendo, sì, no? Sì. Secondo me questo prete che ha confessato di avere un compagno, sì, la coppia di questa settimana. Quindi la coppia lui, Ramsa e il compagno. Sì. La notizia è una notizia bomba, notizia di ieri, però non era questo il personaggio. Grazie Giuseppe, non era questa la coppia di personaggi a cui avevamo pensato. 800 24 00 24, aguzzate l'ingegno, ci ritroviamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno di nuovo cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati. 800 24 00 24, abbiamo chiuso la prima parte con Roberto Moncalvo della Coldiretti, col quale abbiamo commentato la notizia della settimana, l'addio dell'Italia alla possibilità di coltivare organismi geneticamente modificati in Italia, appunto, e abbiamo cercato di capire come e perché questo possa essere una buona notizia che rafforzi l'identità dell'agricoltura italiana in termini di qualità, che si allinei alle decisioni della maggior parte dell'Europa, anche se ci sono delle criticità per quanto riguarda la ricerca, appunto il fatto che in Italia si continuano ad importare sementi e mais geneticamente modificato che poi alimentano i nostri animali. 800 24 00 24, cari ascoltatori, qui abbiamo Alessandro da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, su cosa voleva intervenire? Sulla coppia, secondo me, sì, la cosa più importante che è uscita questa settimana è stata l'approvazione del DL della Boschi, articolo 2. Boschi Finocchiaro, insomma, per arrivare alla coppia. Boschi Finocchiaro, certamente, perché si sono anche baciate a un certo punto, strette la mano, perché insomma dopo tanti dissensi. Le due donne del momento. Le due donne del momento. PD, minoranza, opposizione, quell'altro, Verdini e tutti quanti, insomma. Sì. Un calderon. Potevano essere tranquillamente due ottimi personaggi, una bella coppia, non erano loro a cui avevamo pensato. Grazie Alessandro da Bologna. È un'altra la coppia, quindi, di personaggi che stiamo cercando. Alberto da Forte dei Marmi, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, la coppia, i due genitori della figlia Brittany, che hanno portato all'altare insieme la figlia, il padre naturale e il padre acquisito, secondo marito della moglie. Sì, e anche questa è una notizia che ha girato molto la foto, ha colpito un po' l'immaginario sicuramente. Però Alberto, non erano loro. È stato bello anche risentire questa notizia di questa settimana. Grazie, ma non erano loro la coppia di personaggi. Vogliamo dare un altro indizio a questo punto? Rinforziamo la caccia al personaggio? Diciamo che questa coppia di personaggi ha avuto un diverbio. Quindi non è una coppia, diciamo, che si è amata, non è stata unita da una notizia, diciamo, totalmente positiva, ma c'è un diverbio alla base di tutto questo. Enzo da Ravenna, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti. Vorrei intervenire sugli OGM. Sì. Di base, come si fa a coniugare la produzione di cibo a basso costo per nutrire tutti quanti sul pianeta e tutelare la filiera dei prodotti italiani sui quali noi ci siamo fatti veramente... abbiamo lavorato tanto per averli? Secondo me bisogna fare due percorsi separati. Gli OGM sono OGM, tanto noi li mangiamo da tanto tempo, però vanno bene per le produzioni, per dare da mangiare a tanta gente. Noi dobbiamo tutelare le nostre produzioni. Cioè, lei dice che gli OGM vanno bene per sfamare il terzo mondo, però da noi detta così OGM un po'. sono riusciti a ottimizzare la produttività di un ettaro, cioè in un ettaro riescono a produrre quantità immense e noi ne abbiamo bisogno di cibo. Inutile raccontarsela. Se hanno detto che nelle 17 cose che dobbiamo fare da qui ai prossimi anni c'è anche quella di nutrire il pianeta, come facciamo a nutrirlo il pianeta? Io però ho qualche dubbio sul fatto che gli OGM, diciamo, di per sé possano, per quello che ne so, non sono naturalmente un esperto, per quello che ho letto, per quello che ho capito, credo che per aiutare a nutrire il pianeta, insomma, nei paesi che hanno più difficoltà a garantire un'alimentazione a tutti, sia, diciamo, importante anche un'agricoltura familiare di sussistenza, una piccola agricoltura, non necessariamente OGM, che possa garantire a tutti di sfamarsi, cosa che invece è un tessuto che è andato sgretolandosi proprio a causa anche di grandi multinazionali che hanno fatto produzioni intensive, per esempio in Africa. Questo però è un punto di vista. Enzo, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire, noi non potremmo riuscire a nutrire il pianeta producendo formaggio di qualità come facciamo noi. È logico che ci deve essere. Cioè, lei dice ci deve essere parallela. Spazio per tutti, spazio per chi fa produzione intensive e per l'Italia, purtroppo, per esempio, che non è. In questo caso, purtroppo, mi viene sempre in mente l'America. Gli americani sono bravissimi a creare dei modelli che, se penetrano nel mercato, distruggono tutti quelli che sono i passaggi interni, vedi Uber, vedi tutto ciò che riescono a fare loro. Però bene. Non lo sentiamo più. Va bene, grazie Enzo, andata via la linea. Antonio da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Mi permetto di riallacciarmi un attimo agli OGM, perché la problematica è abbastanza seria nella misura in cui noi italiani, perché mi sento parte lesa, parte causa nel discorso, in quanto sono produttore di latte di bufala. Praticamente noi produciamo senza OGM, di conseguenza abbiamo alti costi per produrre un prodotto di alta qualità, ma alla fine il consumatore non è per nulla tutelato, perché il consumatore non sa che il prodotto è puramente italiano, come per esempio nell'ultima trasmissione delle Iene, dove c'è il famoso Made in Italy, che non viene per nulla tutelato. Noi abbiamo, oltre al pomodoro che faceva riferimento alla trasmissione, anche noi abbiamo cagliate di latte che vengono dall'estero e che poi vengono messe nel mercato italiano sotto costo. Quindi il nostro prodotto in realtà viene del tutto annullato, perché poi la legge è soprattutto, cioè il mercato è economia, non c'è nulla da fare. Io non mi posso mettere in competizione con prodotti che di qualità non sanno nemmeno che cosa vuol dire. Antonio, qua però il tema è quello dell'etichettatura trasparente, credo, no? Cioè, quello che lei dice si potrebbe risolvere, si deve risolvere, si sta in parte anche affrontando con un'etichettatura sempre più trasparente, in modo che i consumatori sappiano in effetti quello che stanno acquistando, se è prodotto in Italia, se non è prodotto in Italia, se è prodotto tramite OGM, se è prodotto senza OGM, e tutto quello che si può sapere verosimilmente in una etichetta. Quindi non c'è un elenco di 100.000 indicazioni che poi non ne legge nessuno, ma questa è una cosa su cui sicuramente si sta lavorando. Grazie. 800 24 00 24 con gli ascoltatori e con la ricerca del personaggio di questa settimana, una coppia di personaggi che ha avuto un diverbio. Ci risentiamo dopo il tratto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Notizie di questa settimana. È sicuramente la settimana della Chiesa, di Papa Francesco, ancora una volta protagonista delle cronache. Oggi si apre il sinodo, la riunione cioè dei vescovi sul tema della famiglia. Però durante il viaggio di ritorno dagli Stati Uniti e da Cuba, il Papa ha accennato anche a una questione, quella delle donne sacerdote. Non si può fare, questa volta nessuna apertura da parte di Papa Francesco. Sentiamo. Donne sacerdote, quello non può farlo. Il Papa San Giovanni Paolo II, dopo lunga in tempi di discussione, lunga riflessione, ha detto chiaramente: non perché le donne non hanno la capacità, ma guarda, nella Chiesa sono più importanti le donne che gli uomini, perché la Chiesa è donna. E non si può fare nemmeno, notizia però di queste ultime ore, di avere un compagno, come ha detto questo prete polacco, perché è vero che Papa Francesco ha detto chi sono io per giudicare gli omosessuali, però avere un compagno non si può, anche se era una compagna io credo che avrebbero detto che questo prete polacco è fuori dalla Chiesa. Queste però sono notizie delle ultime ore, le avete sentite nel giornale radio. Invece torniamo al Papa, torniamo alla vicenda con il sindaco di Roma, Ignazio Marino, perché risentiamo allora anche la frase del Papa, che ha detto chiaramente: io non ho invitato Ignazio Marino a Filadelfia, ci è venuto per conto suo, è credente, apriti cielo, perché poi dopo si è creata tutta una polemica. Sentiamo. Io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro, e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui si professa cattolico e è venuto spontaneamente. E allora cosa ci stava a fare Marino di nuovo all'estero? Ma stai a Roma, ormai questo è un tormentone, è un tormentone al quale io credo il sindaco di Roma dovrebbe dare retta, perché lui ha tutto il diritto di andare in giro per il mondo, di fare le missioni che deve fare, di andare a cerca di finanziamenti per Roma. Però se si diffonde, si sparge la sensazione, l'impressione, mettetela così, soggettiva, che lui sta abbandonando la sua città, questa è una cosa che non è positiva. Ma Marino non si accontenta di uscire indenne da questa polemica, contrattacca: se fossi stato il Papa non avrei dato quella risposta. Il giornalista italiano quando sale a bordo gli chiede: ma l'ha invitato lei Marino? Ma se io non so Santo Padre, ma se me l'avesse fatto a me dopo che avevo preparato un viaggio cui ho parlato di temi epocali, un pochettino avrei detto: non è questo lo scopo del viaggio della conferenza stampa. Per quanto riguarda però la settimana, il tema dei gay resta centrale, perché c'è questo prelato polacco, Monsignor Czaramsa, 43 anni, lo ha detto ieri, che ha un compagno, padre Lombardi, portavoce del Vaticano, ha detto: bene, benissimo, però adesso decadrai da tutti gli incarichi ovviamente che hai nella Chiesa. Questa settimana però c'è stata anche una frase abbastanza scioccante del presidente dello Zimbabwe, Mugabe, che ha 91 anni ed è al potere dall'85, e in tema di diritti dei gay si è allineato, diciamo così, a Putin, ma è andato oltre e ha detto: nessun riconoscimento ai gay, l'ho detto davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché, e questa è la cosa che poi ha fatto saltare tutti sulle sedie, non siamo gay, come se uno dice non siamo donne quindi non diamo i diritti alle donne, che vuol dire? We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions and beliefs. We are not gays. Sempre davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, il nostro Premier Renzi, quindi scendiamo diciamo un po' di livello internazionale, ha detto: siamo pronti ad assumere un ruolo guida in Libia, il caos della Libia che è ancora fuori controllo, quindi l'Italia che ancora una volta in una sede così autorevole si candida. Peccato che il giorno dopo, il nuovo inviato in Libia delle Nazioni Unite è stato nominato ed è un tedesco, è Martin Kobler, quindi diciamo che l'appello a vuoto, direi, alle Nazioni Unite. Renzi però protagonista in Italia durante questa settimana della vicenda sollevata, il polverone sollevato dal suo parlamentare Ansaldi, parlamentare della Commissione di Vigilanza, che in un'intervista al Corriere della Sera ha avuto l'ardire di dire che a Rai 3 c'è un problema, al TGT c'è un problema, non hanno capito chi è il segretario del PD, chi è il Premier, e continuano a maltrattarci, a maltrattare il PD, insomma come se ci fosse una naturale cinghia di trasmissione tra il PD e il TG3, lo ha dato proprio per scontato. Di questo andiamo a parlare tra poco, sentiamo la replica di Renzi. L'editto bulgaro l'ha fatto Berlusconi, non ci sono editti bulgari da parte di nessuno, io non richiamo nessuno, sono qui con lei a fare un'intervista e a dire che quello che interessa ai cittadini è che l'Italia riparta. Sulle note di Rambo diamo il buongiorno e la buona domenica a Massimo Bernardini. Ciao. Buongiorno. Conduttore TV Talk, e insomma ti abbiamo tirato in ballo, anche se sei... Mi volete inguaiare. Ti vogliamo inguaiare perché sei alla RAI, però di questa cosa dobbiamo parlare. No, dobbiamo parlare anche tra l'altro della notizia vera. Parliamo delle notizie vere. Lo sbarco di Netflix che cambierà probabilmente molte cose in Italia per quanto riguarda la fruizione della TV. Però restando a Renzi... Io sono un po' scettico, nel senso voglio vedere se cambierà veramente. Voi vedete in giro tutta questa voglia di fare un nuovo abbonamento, non lo so, no, infatti anche se i prezzi non sono altissimi per fare però cose nuove, no, va è vero. Però comunque non è aria di pagare, in effetti questo è vero. Ne parliamo tra un attimo però, perché prima ti voglio chiedere se questa diciamo risposta di Renzi sull'editto bulgaro ti ha in qualche modo convinto. L'intervista gliel'ha fatta la stessa Bianca Berlinguer del TG3, che lei sì era stata tirata in ballo direttamente. Ma a parte che io personalmente ho una piccola critica a questa intervista, nel senso che non aver per esempio citato nell'intervista Ansaldi, sì, coi nomi, cioè, è un'intervista molto autoreferenziale. Se la cantano, cioè, e se la suonano. Noi che la sapevamo già tutta abbiamo capito cosa le ha chiesto, cosa gli ha chiesto e cosa le ha risposto. Ma io che lavoro come tutti quelli del servizio pubblico per la gente a casa, secondo me non si è fatta carico l'intervista della gente a casa che non sapeva un accidente, perché voglio dire, non è che riguardi poi tutti gli italiani dal primo all'ultimo. No, è vero. Posso dire una cosa? Bisognava un pochino più spiegare. Quando non si spiega e ci si parla da sé e si tutta questa roba diventa un po' confusa. Sembra quasi, seguo il filo del tuo ragionamento che mi convince, sembra quasi che questa cosa di Ansaldi non sia nata per caso, sia nata così per aprire questa questione e per regolare un po' i conti di qualche poltrona, di qualche diciamo editoriale da lineare o meno tra una parte del PD e insomma il PD, Renzi eccetera, e il TG3, cioè come dici tu una cosa proprio, una cosa interna. Sì. Ma questo non lo giudico neanche, dico solo che secondo me non ci vuole neanche entrare in questa tua illazione. Io faccio solo un ragionamento rispetto al telespettatore, cioè quando tu nell'affrontare questi problemi veri, perché voglio dire, secondo me sono stati usati dei toni verso la gente che lavora nel TG3 e su Rai 3, da un certo punto di vista, come dire, indebiti, ma non indebiti perché non si deve politicamente attaccare il TG3, indebiti perché a mio parere, io che sono un professionista che fa televisione, non vado da un politico neanche come dire, a dirgli adesso ti spiego come si scrive una legge. Certo. Finché il politico della Commissione di Vigilanza vigila sul pluralismo, per esempio, benissimo, finché il politico, come dire, dà delle linee di tendenza in autonomia, benissimo, può dire quello che vuole, ha ragione Renzi, questo. Se Ansaldi dice quelle cose lì, cioè, è libero di dirle, no? Non siamo mica in un gulag, voglio dire, benissimo. Il tema però secondo me è un altro, il tema è il politico italiano deve cominciare a spiegarci come fare ascolto, come fare il singolo programma, quanti ospiti dobbiamo avere o meno. Ecco, è come se io andassi al politico italiano e adesso vi spiego come devi fare l'articolo 3 della legge sulle nuove pensioni. Sì. Io non lo faccio perché non è il mio terreno, cioè io, come dire, qui c'è qualcosa che non va da questo punto di vista. E va corretto secondo me. Io per esempio da tanti anni sostengo che la commissione di vigilanza, cioè questa sorta di parlamentino bulgaro che è, da cui i direttori di rete o i direttori dell'azienda Rai devono andare, come dire, a render conto, sì, faccio notare, strumento che c'è solo in Italia, non c'è un altro paese al mondo che ha una commissione di vigilanza, pensa che parola, di vigilanza. Noi, sì, noi sì, è una cosa quasi impossibile da raccontare all'estero, è una mezza follia, ma ecco, come è una mezza follia tutta la Rai? Secondo me è una cosa che dovremmo togliere, nel senso, ma secondo me questo lo pensa anche Renzi, e questo mi consola, perché anche Renzi è d'accordo che, dopodiché, si è tutti più liberi, no? Nel senso che poi, come dire, anche il cittadino Anzaldi può dire la sua come vuole, perché è giusto questo. Noi, a rovescio, secondo me dobbiamo stare più sereni, nel senso che, come dire, noi facciamo il nostro lavoro, che il talk show sia in crisi, si vede, cioè, vuol dire, ormai io che lavoro alla TV Talk, che analizziamo la televisione, ormai la capito. Ecco, parliamo anche di questo, no? Perché poi la questione, diciamo, è a monte, c'era questo giudizio, no? Che qui è una questione diversa, perché stiamo parlando di un giudizio sui talk show e questo paragone, come sempre Renzi riesce a tirare fuori delle immagini che poi, almeno per un po', rimangono Rambo, i due talk che fanno meno di Rambo messi insieme. In realtà poi non era così, perché guardando gli ascolti mi pare che fosse, diciamo, ognuno confrontato con Rambo perdeva la sua partita. Sì, però voglio dire, è un dato di fatto. Allora, noi in Italia, anche lì, unica anomalia al mondo, abbiamo creato un nuovo genere televisivo, il talk show politico, che è arrivato a fare fino a 5 milioni, 6 milioni di telespettatori. Non esiste un'analogia nel mondo, una roba simile. Oltre a non essercene così tanti, perché noi abbiamo anche sto record, cioè non hanno mai fatto così ascolto negli altri paesi. Li fanno sotto elezioni, li fanno una volta alla settimana, per esempio in America li fanno la mattina, della domenica, del sabato, sì, ma fanno pochi ascoltatori. Cioè sono un piccolo genere televisivo, perché come sempre al mondo i generi sono il varietà, l'informazione nel senso dei telegiornali e la fiction. Allora, noi abbiamo inventato questo macrogenere, è durato per un bel po' di anni, ha aiutato molto la televisione italiana, che ha molti meno soldi perché c'è meno pubblicità. Ha aiutato molto anche certi politici a rimanere in carriera. Ecco, ma no, quello è un altro punto, perché mentre i politici dicono, e io sono d'accordissimo, io che guido peraltro un talk show che secondo me non è un pollaio. No, tutt'altro. Io faccio parlare la gente, le pochissime volte che qualcuno ha dato sulla voce all'altro non è stato mai più invitato. Io in 15 anni di lavoro ho invitato un politico, uno, cioè proprio uno in 15 anni è una buona media. Ecco, il problema è che mentre quando i politici dicono sono dei pollai, dove i politici come dire, si danno solo sulla voce e non si capisce niente, a parte che condivido e lo dico da più di 10 anni. Ma allora perché ci vai? Sono allora loro la ci carne, va? La certo, carne che rende vivo questo genere, sono loro. Loro abitano nei talk show dalla mattina alle 7 alla notte all'1. Qui tu dici la critica. Quindi, del politico al talk show è ridicola. Non è semplicissimo. Loro dovrebbero dire: se ci sono i confronti a 3 incasinati, non ci vado più. Come ha fatto per tempo il 5 Stelle, il Movimento, esatto, 5 Stelle. Ne avete visto uno. 5 Stelle lo fanno ormai sono anche loro nel pollaio. Quindi mi dovete spiegare perché questo cortocircuito, da una parte dicono è un pollaio, i politici si scontrano, giustissimo, ma siete voi che ci venite a fare il pollaio, quindi non ci venite più e secondo me diamo una bella ripulita alla televisione. Ma come italiana, si potrebbe secondo e te? E anche alla politica italiana, perché la politica italiana secondo me è avvelenata da questi ultimi 20 anni di talk show. Sì, sì, è un gatto che si morde la coda, diciamo così, ma certo. Tornando proprio al genere, secondo te il talk show politico, ma non solo, insomma, di attualità, è un format, guardando anche all'estero, tu hai fatto un confronto, hai detto in Italia ce ne sono tanti più che all'estero, soprattutto con tanti politici così, ma è un genere che può essere rinfrescato, rinnovato, ci può essere un tocco di qualcosa di nuovo che arriva dall'estero, secondo te, qualche idea, oppure no? Guarda, in giro, guardando anche in giro per il mondo, la formula è quella, cioè voglio dire, adesso consoliamoci guardando gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti abbiamo visto, sta emergendo attraverso la televisione di questi due mesi Donald Trump, no? È cominciato tutto una sera in cui davanti all'aereo di Reagan tutti i candidati repubblicani dovevano presentarsi e lui ha fatto un clamoroso show usando, come dire, sgomitando, esagerando. No, quindi il meccanismo è sempre quello, non è che uno dice guardo all'estero che è molto meglio, è molto, cioè, come dire, tutto il mondo è paese da questo punto di vista. Secondo me è giusta la semplificazione del dialogo, cioè due presenti, uno, il faccia a faccia, no? Guardate, il faccia a faccia l'ha invitato Minoli 10.000 anni fa, quindi voglio dire, niente di nuovo sotto il sole, no? E lì effettivamente servono a capire, per esempio, il politico in questo caso. Però io anche lì mi viene da dire sommessamente una cosa. A me colpisce una cosa quando i politici danno i loro giudizi. I politici, come dire, hanno una struttura in Parlamento che gli dovrebbe dare degli strumenti diversi, più di noi mortali, per comprendere la realtà. A me colpisce molto invece un dato, che il politico medio italiano si siede in un talk show, che sia di gruppo, che sia da solo, che sia un faccia a faccia, e ha in mano, dal punto di vista, come dire, delle fonti, sì, quello che ha letto sui giornali, che abbiamo letto tutti sui giornali. Cioè, come dire, lo trovo pazzesco questo. Cioè, lui mi dovrebbe portare una documentazione che la sua segreteria gli ha dato, per cui stiamo parlando di questo tema, guardate, vi dico la verità su questo tema perché la mia segreteria mi ha documentato, io ho studiato questo problema e vi dico una chiave diversa. Invece l'idea che sia un chiacchiericcio che parte semplicemente che ha letto dai titoli che uno ha letto alla mattina sulla rassegna stampa, la trovo ridicola. Cioè, però qui qualche responsabilità ce l'avranno anche questo, quelli che conducono questi talk show, che invece, diciamo, di portare la discussione su quel piano potrebbero portarla da un'altra parte. E invece hai ragione tu, la discussione poi torna sempre. Guarda, sull'ultima ti dirò polemica, una cosa gradevolissima, sì, anche per me stesso e per i nostri colleghi. Secondo me uno dei difetti del giornalista italiano è quello, in compenso, di aver usato la politica per far carriera, dentro e fuori l'azienda Rai, ma non solo, e senza badare in fondo alla qualità del suo prodotto. Ma insomma, il nostro paese è un paese dove la massimizzazione degli ascolti da più di 20 anni, insomma, mettiamocene pure 30, è l'unico ideale. E siccome tutto il sistema televisivo ha solo questo faro, questo obiettivo, tant'è che cosa stiamo dicendo? Con risultati poi a volte con risultati autoconsolatori, ma a volte anche magri, perché come hai detto tu giustamente, ma capisci, gli ascolti, ma pensa alla deformazione. Noi oggi che cosa imputano in fondo i politici insieme ai talk show, insieme al dire sono un pollaio, cioè, gli dicono che fanno bassi ascolti. Senti, ma se io faccio una cosa più complessa, gli ascolti ne farò ancora meno. Se elimino il pollaio ne farò ancora meno. Quindi vi mordete la coda quando date questi video. Senti, ma può essere, chiedete una cosa o ne chiedete un'altra? Può essere secondo te, te lo chiedo, è un parere che chiedo interessato, perché noi facciamo un programma che si chiama Si può fare, in cui cerchiamo sempre di dare anche delle buone notizie, partendo dalla cronaca, dalle notizie di attualità. Mi sembra che questa cosa stia un po', diciamo, permeando anche alcuni talk show. Lo ha iniziato a fare Report, che non è un talk show, è una trasmissione di approfondimento, ecco, ma aveva la Good News. Non è un talk show, però. Esatto. Può essere questo, diciamo, un'ancora di salvezza, andare per ogni tanto in cerca di qualche cosa che funziona, anche per mettere in luce con una specie di chiaro scuro poi le cose che non funzionano, che comunque resta il mestiere del giornalista, sicuramente. Come lo vedi, certo, questo però, tema del Good News? Allora, io lo vedo molto bene, però bisogna essere molto, come dire, freddi. Allora, noi veniamo, come dire, da una malattia. La malattia è stata che abbiamo abituato il telespettatore italiano a una proposta mediamente bassa di qualità e a drogare, come dire, i programmi di informazione. Cioè, veniamo da oltre 20 anni di questa cura. Per fare nuove proposte che escano da questa malattia ci vorrà molto tempo, bisogna essere sereni. Cioè, i nuovi programmi che sceglieranno una nuova strada, che non è appunto quella del pollaio, quella della superficialità, faranno fatica, faranno pochissimi ascolti, ci vorranno anni per ricostruire un rapporto importante col pubblico. C'è quindi da la fare. Strada è lunga, la strada è lunga. La strada è lunga perché appunto c'è tutta la convalescenza da fare, perché siamo tutti politici. Mi piace pubblico, questa metafora del malato. Tutti drogati, insomma. È un po' così, è un po' così. Metadone per un bel pezzo. Chissà se Netflix potrebbe essere un'aspirina o non dico il metadone, ma insomma, tu sei partito un po' scettico. 7,99 euro l'abbonamento base, per fare che cosa però? Intanto chiariamo questo perché molti ascoltatori magari non hanno idea. Cosa è Netflix, Massimo? Insomma, è una specie di grande, come dire, di super abbonamento, non so come dire. Ti metti a disposizione un'enorme offerta da tutte le possibili reti e produttori, compresa se stessa, nel senso che Netflix produce anche, che poi deve produrre, no? Però per dire, il paradosso è che credo la serie che ha lanciato Netflix nel mondo, no? Questa con Kevin Spacey, no? House of Cards hanno venduto a Mediaset, e quindi la nuova serie non la puoi vedere sull'abbonamento di Netflix. Ah, questo è fantastico, quindi, non lo sapevo. Questa è una follia, no? Non è una follia, come dire. È una piccola contraddizione. No, però insomma, l'hanno già venduta, quindi ormai non possono più proporla loro al pubblico. Quindi da un certo punto di vista è tutto da vedersi. Io ci voglio dire adesso, per dire, come sempre, questo è un difetto classico della nostra informazione. Adesso tutti al grido di com'è grandiosa questa cosa, cambierà il mondo, cambierà tutto. Secondo me, cioè, un mio collega dell'Avvenire, Gigi Arancini, ha scritto giorni fa un pezzo analizzando il nuovo scenario. Sì. Ed è stato molto interessante perché lui dice la battaglia prossima, Ventura, sarà proprio sull'on demand, cioè chi proporrà nel suo bouquet a un prezzo più interessante prodotti di qualità vincerà la battaglia dei propri 10-20 anni. Secondo me è un'ipotesi interessante, nel senso che effettivamente, come dire, il pubblico più pregiato già lo fa, nel senso che è insoddisfatto della grande offerta generalista e va cercando cose diverse. Sì. Però quello è un pubblico che i soldi ce li ha e quindi, come dire, cerca abbonamenti, poi capito, è quel pubblico che sa scaricare in inglese le cose, addirittura trova le cose già, insomma, pirati di alto livello, di alto cabotaggio, non so come dire. Certo. E poi c'è l'altro pubblico, sul quale potrebbe, tu vedi un po' in vantaggio forse l'on demand, addirittura sulla possibilità di fare abbonamenti come Netflix. Io Massimo ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, spero di risentirti presto, commenteremo altre notizie. TV Talk va in onda il sabato, noi andiamo in onda il sabato e la domenica, quindi siamo anche mezzi contemporanei. Grazie, ciao, buona domenica. Sì, gli ascoltatori di Radio 24. Grazie. E siamo lunghissimi sulla pausa, ci sono gli ascoltatori che devono rispondere al gioco sul personaggio della settimana, tutto tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora, cari ascoltatori, andiamo con Maria Luisa che ci chiama dalla provincia di Trieste. Buongiorno, da Trieste. Buongiorno. Benvenuta Maria Luisa. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Volevo intervenire sui due personaggi più importanti, diciamo, sì, della settimana, e sul loro intervento. Vuole che le dica? Sì, assolutamente. Allora, intervento all'ONU di Barack Obama e Putin. E anche il vertice, la gelida stretta di mano tra i due, e insomma tutti, esatto, i problemi sulla Siria. A proposito di Assad, di fatto, appunto, penso nel problema. Maria Luisa, questa è una importantissima notizia della settimana, una coppia importantissima di personaggi, e c'è stato anche sicuramente un diverbio, possiamo dirlo, ma non erano loro a cui avevamo pensato. Grazie invece per averci fatto ricordare questa notizia. Sandra da Roma, buongiorno. Proviamo con Sandra. Sandra non ci sente, eh? E allora andiamo con Alessandra da Genova. No. Buongiorno Alessandra. Salve. Dunque, la coppia secondo me è quella di Morandi e Magalli, che ha litigato perché Magalli voleva fare un selfie con Morandi e poi postarlo su Facebook, e Morandi si è rifiutato. Che momenti, che momenti meravigliosi. Ma non so, momenti meravigliosi, momenti di amarezza per Magalli sicuramente. Vabbè, ma meno male, perché ogni tanto dei selfie bisognerebbe rinunciare a postarli, a farli. Quindi lei dà ragione a Morandi, che ha detto pensiamoci, pensiamoci su a fare questo selfie. Pensi Magalli, che parabola, da essere quasi candidato in pectore per diventare presidente della Repubblica a non avere il selfie nemmeno con Morandi, quindi diciamo perché proprio... Sì, però è riuscito ad andare a Pechino Express e quindi comunque un momento di visibilità l'ha avuto ultimamente. Ah, brava! Grande. Alessandra, hai indovinato, era questa la coppia leggera, leggerissima di personaggi, una notizia diciamo minima di questa settimana, però è una scelta, ci stava. Vince la mini guida di Expo edita da 24 ore cultura, complimenti Alessandra, quindi il gioco anche oggi siamo riusciti a consegnarlo diciamo nelle mani degli ascoltatori. 800 24 00 24, c'è ancora tempo per intervenire, però andiamo avanti con il riepilogo delle notizie di questa settimana, sempre a caccia di buone notizie. Allora, due notizie così al volo, proprio perché sono buone notizie, molto piccole, però le ricordiamo perché riempiamo i telegiornali e i giornali di notizie sulla crisi economica. Poi abbiamo, sale la fiducia dei consumatori, livello più alto da 13 anni a questa parte, e va bene, sono queste misurazioni che ci sono e ne prendiamo atto. Cala il tasso di disoccupazione ad agosto, 11,9% sotto il 12%, anche una soglia psicologica, e anche di questo siamo felici, aspettando diciamo così di rendercene conto anche in maniera più diciamo più visiva, più fattiva, che ci siano questi posti di lavoro davvero, soprattutto per i giovani. Tema diciamo energia mobilità, ci sono due notizie che ci interessano. Una è il fatto che 10 regioni italiane hanno presentato una richiesta di referendum contro la, la possibilità di trivellare entro i 12 chilometri dalle nostre coste il mare per trovare il petrolio, perché soprattutto chiedono che, contrariamente a quanto previsto dal il decreto sviluppo e lo sblocca Italia, le regioni possano tornare diciamo a dire la loro, anziché diciamo ad essere bypassate dal parere del governo. Quindi il movimento no triv, le regioni sono Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise. Poi però in settimana è tornata l'attualità anche il ponte sullo stretto. Sì, pensavamo che fosse una roba completamente dimenticata, che gli sprechi, che i soldi sono già stati spesi per aprire una società che non ha fatto nulla fino ad ora, ma ha mangiato già un sacco di soldi, fosse acqua passata. E invece c'è una mozione passata col parere della maggioranza, per la felicità di Angelino Alfano, che ha piantato la bandierina del ponte sullo stretto, lui siciliano. Sentiamo una voce di settimana, un parlamentare di SEL, Scotto, vai. Nella disattenzione generale il governo apre alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, perché deve pagare un obolo al suo alleato di governo Angelino Alfano. È il tradimento del programma elettorale Italia Bene Comune e di decenni di battaglie ambientaliste al servizio della giustizia e contro la mafia. Noi tra poco parliamo di quella che è non diciamo il futuro futuribile o la fantasia del ponte sullo stretto, ma in tema di mobilità parliamo di bicicletta. C'è una notizia questa settimana: la Francia ha riconosciuto a tutti i ciclisti che vanno al lavoro in bicicletta un piccolo compenso economico. Traffico. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. E diamo il buongiorno e la buona domenica a Francesco Baroncini, direttore della FIAB Onlus, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Buongiorno Baroncini. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. E allora, 25 centesimi a chilometro, credo, per, in Francia, per ogni ciclista che va al lavoro in bicicletta. Qualcuno ha detto però la Francia ha solo piantato una bandierina così in vista di COP21, no? Trattative che ci saranno a Parigi sul clima, però è una cosa concreta, concretissima, no? È una cosa assolutamente concreta, anche perché la Francia la sta studiando da un po' questa misura. È vero, è vero. L'aveva annunciata l'anno scorso. Esatto. Hanno studiato la misura, hanno pubblicato anche dei rapporti su degli studi per valutare quanto fosse 25, sono tanti, sono pochi, quanto costano allo Stato. In realtà, alla fine, siccome chi pedala sta meglio in salute... Giusto. Si può risparmiare. Qui ci sono meno costi sul sistema sanitario, perché è vero che questo bisogna dirlo. Ci sono meno consumi energetici, c'è più un'aria più pulita, c'è meno occupazione dello spazio pubblico, tutte cose che sono risparmi. E quindi la Francia dice: io posso investire questi risparmi per incentivare questa mobilità sostenibile. Un sogno per l'Italia? Assolutamente, però è un sogno sul quale stiamo lavorando anche noi. Come FIA, l'Associazione Italiana Amici della Bicicletta, abbiamo già in Parlamento una serie di proposte per modificare il codice delle strade, sì. Perché il codice della strada nostra è ancora refrattario alle biciclette per certi versi, però abbiamo un intergruppo parlamentare che sta lavorando, sodo, e qualche piccolo risultato ogni tanto si è visto. Beh, ne abbiamo... ne abbiamo anche parlato. Però io so, Baroncini, che in questo momento c'è attivo un progetto che vi sta a cuore, che è proprio Bike to Work, che proprio ha a che fare con il fatto di la nuova frontiera, insomma, della bicicletta, andare al lavoro in bicicletta, ed è anche un po' un gioco che state facendo in alcune zone d'Italia. Ce lo racconta? Allora, il progetto Bike to Work è un progetto europeo che è stato gestito dall'FIEF, che è la nostra federazione europea di riferimento. Che cos'è? Significa semplicemente incentivare le persone a lasciare a casa l'auto il più possibile e usare la bicicletta per andare a lavorare. Usare la bici perché? Per il discorso salute, si sta meglio ovviamente, sta meglio il dipendente, guadagna l'azienda, perché abbiamo calcolato che è molto importante per le aziende. Ogni dipendente che usa la bici si ammala 3 giorni l'anno meno. Fantastico. Quindi se calcoliamo su aziende già medio grandi, sono molti giorni lavoro guadagnati, e in più si è più concentrati perché si è rilassati, non si arriva confermo io ogni tanto lo faccio, e non lo dico in toscano, dico infuriati con l'altro automobilista che non è stato veloce al rosso, certo. Ci ha spiegato il parcheggio, quello che è. Per incentivare questo, Fiat ha messo su questo piccolo gioco, questa piccola competizione tra le aziende. Si può andare sul sito lovetoride.net. Me lo ripete per bene? Me lo ripete? Love to ride, love to ride. Love to ride, love to ride, esatto. Ci si può iscrivere. Io purtroppo ho esaurito il tempo, perché mi dispiace, Baroncini, oggi siamo un po' lunghi, però prometto, anche perché noi di bici ci siamo occupati tantissime volte, voi lo sapete, che siccome questa cosa sta andando avanti, torneremo sicuramente a parlarne e a raccontarla meglio. Adesso c'era questa notizia sulla Francia che ci premeva di approfondire. Grazie, Baroncini, buona domenica per essere stato con noi. Tanto, buon lavoro, e mi raccomando, usate la bici per andare al lavoro. Benissimo, benissimo. E andate sul sito Love to Ride per iscrivervi e giocare al progetto Bike to Work, sempre tutto in inglese, ma mai che si dicesse qualcosa in italiano. Adesso però, siccome abbiamo parlato di TV, parliamo anche di radio. Sono oggi 16 anni dalla nascita di Radio 24. Sento dei rumori strani. Alessandro Milan, qua, ciao Alessio. No, rumori strani, non ti chiedo. No, sono io il rumore strano. Sei tu il rumore strano. No, senti, compagnia fissa ormai tutte le mattine di Radio 24 per i nostri ascoltatori, però a parte il compleanno, qui si potrebbero aprire ricordi. Ci facciamo gli auguri. Facciamo gli auguri, abbracci, baci virtuali, Alessandro. Però tu da domani, diciamo, cambi un po' formula nella seconda parte, c'è una piccola novità. Insomma. Eh sì, c'è una piccola grande novità, dalle 8:15 alle 9, c'è l'ultima parte di 24 mattino, quella dove arrivano i debosciati veri, perché io in realtà dalle 6:30 sono in onda. Ci sarà con noi Oscar Giannino, è un grande ritorno. Basta! Oddio. Abituatevi, cominciamo così, con gli scoppi dei fuochi d'artificio. Vabbè, insomma, già c'eri tu. Poi cosa fate insieme? Facciamo Attenti a noi due. Che ovviamente c'è il famoso film Attenti a quei due, noi siamo attenti a noi due, che tra l'altro è stato un film parodia con Nino D'Angelo, e ti ricordi quello lì, il Roscio della terza C, come sì, si chiamava, Bracconeri? Vagamente, vagamente, vagamente. Io non ho capito chi farà Nino D'Angelo e chi farà quello, ma più o meno. E qui, insomma, però, e così è un po' anche da creare, un po' da vedere. Comunque voi avete già fatto conduzione insieme tante volte, il programma 24 mattina è rodato, avete una squadra bellissima di ragazzi che ci lavorano. Qui c'è Lorenzo Nespoli, sì, oggi c'è Lorenzo Nespoli, sai che la domenica te lo rubo. E va bene, Alessandro, appuntamento domani mattina. Esatto, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle 9 c'è anche Oscar Giannino. Va bene, un abbraccio, grazie Ale. A te, grazie. Era un modo anche questo, diciamo, per celebrare il compleanno di Radio 24, ma soprattutto per ricordare questo appuntamento nuovo del palinsesto della radio. Noi siamo in chiusura, io ringrazio come sempre naturalmente Andrea Piana, che ha scritto insieme a me il programma, Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone, Carmelo Lauricella in regia. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona giornata, ciao. Licenziato! Oh!